Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quella classe era un ambiente violento. Tra quella gente vidi per la prima volta un tirapugni. Scoprì la crudezza delle riviste pornografiche. Il profitto scolastico nel complesso era terrificante. Spiccavamo in pochi. E poi c'era Gianluca. Sono Nicola, ho 47 anni, abito a Labico. Sono sposato, ho un figlio e lavoro presso un corriere internazionale come backline. Ed ecco, finalmente arriva il giorno dei quarti di finale. Affrontiamo la Spagna, partita difficile, ma io ho molta speranza. Per la prima volta in tutto il mondiale siamo noi ad andare in vantaggio con Baggio, ma questa volta con Dino, non con Roberto. Finisce il primo tempo, io sono felicissimo, prendo la mia mountain bike, piazzo la mia bandiera tra sedile e parafango e faccio un giro del paese. Mi appare deserto come non mai, scalo la salita che mi porta in piazza, faccio il giro e mi lancio lungo la discesa che porta a casa per il secondo tempo, ma pochi metri prima, a fermare la mia corsa, è una signora un po' anziana che mi fa segno di fermarmi. Appena le sono vicino, mi guarda e mi dice: ma sei pazzo? Porta sfortuna a festeggiare prima. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, sono le 16:09. Quello che vi ho appena letto è il racconto di un mondiale visto da un ragazzino di 12 anni. In realtà ce lo scrive, ce lo racconta Eric, che di anni non ne ha, 12, è cresciuto, ma si ricorda di quei mondiali. Ve lo leggo perché stiamo raccogliendo storie legate ai vostri mondiali di calcio. Inutile ricordarlo che il 12 di giugno cominciano e noi la prima settimana di luglio, che sostanzialmente è l'ultima dei mondiali, raccontiamo le nostre storie di mondiali. Se avete un episodio particolare durante una partita, eravate seduti su un divano con qualcuno che ha fatto qualcosa che vi è rimasto impresso, oppure eravate dall'altra parte del mondo, avete visto un'Italia-Inghilterra in una situazione assurda, o ancora quella partita di quel mondiale l'avete vista con qualcuno che poi è rimasto per sempre con voi, voi siete qui, @radio24.it. Raccontiamo storie legate ai mondiali e che le chiediamo a voi, come sempre facciamo, come facciamo tutti i giorni. Voi siete qui, @radio24.it. Una, massimo due pagine. Raccontiamo i mondiali visti da questa parte, invece che da quella. Per tutta la prima settimana di luglio, storie legate ai mondiali. Ve lo ricordo, l'indirizzo è sempre quello. Voi siete qui, @radio24.it. Veniamo ad oggi invece, perché la storia che ci racconta Nicola è una storia che probabilmente non così cruda e non così, sì, così secca abbiamo vissuto un po' tutti. Avevamo qualcuno in classe che un po' ci spaventava, che non ci faceva passare delle belle giornate a scuola. Oggi lo chiamano bullismo ed è iper raccontato dai social, dai video, perché chiunque ha un cellularino e riprende e boom, finisce su YouTube. All'epoca non c'era, però rimangono i ricordi come quelli di Nicola. Tra tutti questi personaggi però c'era qualcuno che comunque a Nicola è rimasto un po' dentro, un po' se lo ricorda e sempre se lo ricorderà, e adesso ce lo racconta. Si chiamava Gianluca. 349 238 6666, oppure voi siete qui Radio 24 è il profilo Facebook, o voi siete qui R24 è il profilo Twitter. Se invece la pecora nera eravate voi, se eravate voi quelli che lui però sì, ne ha sempre una, a scuola non va bene, a che punto siete adesso invece? Sono passati un sacco di anni, ci avete un lavoro, ci avete una famiglia, magari non avete né uno né l'altro, però non siete più la pecora nera di nessuno. Se lo siete stati, 349 238 6666. Quella che banalmente si definisce pecora nera si chiamava Gianluca, e questa invece è la storia di Nicola. Anno scolastico 81-82. Arrivavo da un triennio di media inferiore in cui avevo sviluppato un senso di appartenenza e solidarietà con i miei compagni di classe assolutamente invidiabile. E cambiare i componenti di un'orchestra affiatata mi metteva a disagio. Iniziai il ciclo delle superiori da solo. Dai miei amici ero l'unico ad aver intrapreso l'indirizzo di geometra. Mi trovai tra gente estremamente diversa per censo e cultura rispetto a quella con cui fino ad allora avevo vissuto. In quegli anni frequentavo ancora la parrocchia ed, avendo fatto asilo ed elementari dalle suore, avevo sviluppato l'idea che si è tutti buoni e disposti ad aiutarsi l'un l'altro. In quella prima B, invece, era concentrata non so quanto volutamente la teppa di Ostia Nuova, o almeno quella in erba. Pochi anni prima, dove sorgevano le case dell'Alitalia, intorno a quei fabbricati rosso mattone si era insediata, o era stata fatta insediare, una comunità che viveva in baracche di lamiera, tufellari, zingari e tutti quei derelitti che Roma aveva pensato bene di confinare al mare, tra sabbia e spontanee canne di bambù. Quella zona era un po' la discarica, è stata fatta un po' come discarica sociale negli anni 70. Poi a Ostia fortunatamente hanno aperto il porto, quindi si è molto ripulita. Quindi adesso è una città, una zona di Ostia, di Roma, assolutamente tranquilla, assolutamente vivibile. Anni fa molto meno. Era il confine che, si diceva, neanche la polizia si avventurava ad affrontare, specialmente la sera. Capitò in via Forni. Una pattuglia effettuò un intervento. Rubarono l'auto, perfino in pieno giorno. In fondo a quella strada c'è piazza Gasparri, poco oltre Pelosi uccise Pasolini. I miei compagni di classe arrivavano quasi tutti da lì. Feci in fretta a capire di chi potermi fidare. Di nessuno. Di quel primo anno di superiori non conservo alcun buon ricordo. Ogni mattina entrare in classe significava, almeno per me, gracile, insicuro, puntualmente spaurito, vivere un episodio di quei videogiochi cruenti in cui si combatte contro alieni, mostri di ogni tipo, animali fantastici. E se nello schermo ci sono ben 3 tentativi per riuscire vincente, qui ce n'era uno solo al giorno e unicamente domani si poteva riprovare, ma solo per perdere. Il primo giorno di scuola scoprì la profonda frattura esistente, peraltro raramente sanata, tra neofiti e veterani. Loro si abbracciavano, si spintonavano, si insultavano, complici di una iattura che li aveva colpiti senza riconoscere le mancanze che avevano determinato la bocciatura. Formarono coppie probabilmente consolidate, evitando di prestare alcuna cameratesca condivisione con chi non conoscevano. L'anno precedente io ero stato vittima di un incidente stradale. Sul volto portavo un'inestetica cicatrice che dall'osso frontale, poco sopra la tempia, mi scendeva quello zigomale, contornandomi l'occhio destro. La ruvidità tipica dei ragazzi e l'educazione approssimativa emersero. In modo spicciolo mi fu affibbiato l'antipatico appellativo di occhio fragico, cioè fradicio, con quella C che a Roma si trascina in sh, conferendo quella nota di sguaiatezza caratteristica del dialetto. Non avevo ancora detto il mio nome a nessuno. Quel soprannome mi accompagnò fino a fine giugno. Di situazioni spiacevoli ne ho vissute tante in quei mesi, ma non voglio soffermarmi sul nonnismo spicciolo, sulle prepotenze, sulle soperchierie, sui furti all'ordine del giorno e sulla derisione. No, del nucleo originario, 23 persone, solo in 4 traguardammo l'esame del diploma. La ragione per la quale stendo queste righe è per ricordare un soggetto, non posso definirlo amico. Un soggetto verso cui, stupidamente, lo riconosco, provo un senso di rimorso per essere arrivato tardi, per avergli offerto un aiuto oltre il punto di non ritorno. Quasi tiziata e vissuta nello stesso tempo, insegna quante volte c'hai da essere spento, troppe volte ha visto l'amore fasse rosso su una lama del coltello, ma dimmi quante volte hai visto il cielo su Milano e detto quanto è bello, dietro la vede dal lato, scavalca il muro al fare il mio mancanto, eccola, e stasera non farà la stupida, darà le meglio stelle, la meglio luna che mi illumina, è tutto qua, comunque resta, è tutto qua, restano le meglio stelle, solo le meglio che Roma, la città eterna, non scende a patti. Quella classe era un ambiente violento. Tra quella gente vidi per la prima volta un tirapugni. Scoprì la crudezza delle riviste pornografiche. Sentì scattare le lame del serramanico. Temetti la rabbia che trovava sfogo nelle risse notturne, al cui termine, o in alternativa, la mercificazione del sesso era la normalità. Vidi la droga, ne percepii l'odore quando la fumavano. Assistetti alla complicità del branco in cui offendere un componente significava trovarsi contro una falange, magari esterna, sconosciuta. Il profitto scolastico nel complesso era terrificante, spiccavamo in pochi. E poi c'era Gianluca. I professori avvertivano le sue potenzialità. Non ricordo più quanto le avessero coltivate, ma forse stanchi della volontaria aridità, alla fine desistettero. Senza appello lo fermarono su 4 materie, che corrispose alla sua seconda e consecutiva bocciatura. Come uno spettatore di una tragedia, guardavo gli attori muoversi ciascuno nella propria parte e nulla facevano per migliorarla. accettavano rassegnatamente un dovere che la società imponeva loro e ostinatamente vi si opponevano, sfidando l'autorità solo perché tale, sentendosi immuni. Obbligato verso se stesso ad interpretare la sua superiorità, scolasticamente Gianluca vivacchiava. Io non capivo la sua indolenza verso la cultura. Mi sarebbe bastato così poco per averne ragione e me ne dispiacevo. Gianluca aveva un anno più di me, quindi all'epoca aveva un 15 anni, abbastanza prestante, decisamente un bel ragazzo, però purtroppo, come molti ragazzi, tendono ad ambire unicamente al successo, e probabilmente è stato quello che questo desiderio che l'ha portato poi dove l'ha portato. Poi un giorno, forse era aprile, forse maggio, gli parlai. Gianluca, tra poco si definiranno le materie. Se quest'estate dovessi avere bisogno di una mano, fammi sapere, ti aiuto. Io ero certo che ce l'avrebbe fatta a giocarsela a settembre. Avrei impiegato la mia estate, se fosse servito, a scrollarlo dall'apatia di quell'ignoranza. Lui mi guardò, non abituato a favori gratuiti. Grazie, mi disse, e mi chiamò per nome, evitando quel nomignolo. Va bene, grazie. Dopo gli scrutini non lo incontrai più. Anni dopo, sfogliando le pagine di cronaca, lessi del fermo a Barcellona di un importante trafficante di stupefacenti. Aveva il suo stesso nome. Incappare in un'omonimia mi lascia da sempre perplesso. E poi, 7 luglio 1996, via dei Pescatori. Le macchine sono incolonnate, tornano tutte da una giornata di mare. Una moto con due persone si affanca alla sua. Gli sparano addosso. Gianluca, ferito, cerca di fuggire dalla parte del passeggero. Un sicario scende, con calma fa il giro dell'auto e gli termina il caricatore addosso. Rimonta in sella e va via. Nella stessa fila, poche vetture dietro, c'è un'auto dei carabinieri. Conosco uno dei due occupanti. Il giorno dopo mi ha confessato: siamo rimasti bloccati nel traffico, non siamo riusciti a inseguirli. Poi con una moto c'è poco da fare. Al TG rividi Gianluca. Sorrideva. Mia nonna, guardando, disse: «Lev pur un beguaglione!» Quasi che l'estetica avesse potuto escluderlo dalla cattiveria. Non ho idea, in 30 anni, quante persone abbia avuto sulla sua anima, quante vite si è riuscito a distruggere. Sicuramente la sua, convinto che il denaro gli avrebbe dato la felicità, che era conveniente accumularlo ad ogni costo, che gli scrupoli, in questa fretta, non erano più ostacoli di poco conto. Ecco, celebrare la sua memoria è immorale verso le sue vittime, ma mi rimprovero ancora quel ritardo. Solo Nicola nella foto che ci ha mandato e che trovate come tutti i giorni sul nostro sito radio24.it alla nostra pagina Voi Siete Qui. Indossa una maglietta arancione, oddio, più che arancione, rosa salmone, e tiene sotto un braccio un bambino che immagino sia suo figlio e accarezza con l'altra mano un cagnone, un pastore tedesco direi, e sembra essere nel giardino di casa sua. Anzi, sì, immagino sia proprio nel giardino di casa sua. Pronto? Eccoci Matteo. Eccoci, buonasera. Ciao, come stai? Tutto a posto, ringraziamo Dio, non ci possiamo lamentare. Nicola, sei nel giardino di casa tua, giusto? No, no. A casa degli amici. Ah, ok, il figlio è il tuo però? Però quello sì, lo rivendico, okay. Dovrebbe essere roba mia, insomma. Ok. Senti Nicola, risale a questa storia agli anni 80, giusto? Sì, mi sono diplomato nel 86, quindi fai un indietro tra dell'81 81-82, sì. tu ci dicevi. E tu da allora fino al 1996 di fatto Gianluca non lo vedi più, giusto? Cioè dall'ultimo giorno di scuola. Sì, finita l'esperienza del primo anno, dove ci fu una falcidia di bocciature, non ho avuto più occasione di incontrare nessuno. Poi ecco, a distanza di tempo rileggere il suo nome e rivederlo in televisione, certo non è stata un un buon ricordo. Certo, immagino. Adesso vivi a Labico, dicevi? Labico, perdone, non azzecco mai un accento. Che è un paesino, sì. Sono andato a vedermelo, diciamo, il mio secondo passatempo è andare su Google Map a cercare cose a caso. Sì. E quando hai detto Labico sono andato a cercarmi subito. È un paesino, ma è su un piccolo montarozzo, o sbaglio? Più o meno sì, dovremmo essere 6.000 anime, ma insomma, distiamo davvero poco da Roma, anche se poi effettivamente non lo conosce quasi nessuno. Sì, infatti, fortunatamente o sfortunatamente? Fortunatamente, ancora un posto dove si può ancora lasciare la chiave attaccata alla toppa della porta. Ecco, benissimo, dopo averlo detto adesso in radio, forse Nicola, magari stasera chiudila. Sì, ma questo sono dettagli. Ok. Senti, tu che cosa hai fatto poi dopo nella tua vita, dopo l'esperienza al geometra, insomma, dopo le superiori? Ma ho deciso di non avere più nulla a che fare con il mondo dei geometri, però okay. Poi ho sposato una donna che di mestiere fa il geometra, quindi è una maledizione che mi accompagna. Sei rimasto lì nei pressi, insomma. Sì. E cosa fai nella vita? Lavoro presso un Corriere Espresso, un servizio clienti nella backline, diciamo assistenza al cliente estero che ha bisogno di ritiri in Italia e assistenza al cliente italiano che ha bisogno di ritiri all'estero. Una volta sono stato a ritirare un pacco da un Corriere Espresso perché dovevo andare a ritirarlo perché era per Natale, ero in ritardo, ed è uno spettacolo vedere quello che succede lì dietro con queste, non so quanto grande sia, insomma, però quello che ho visto fuori Milano aveva queste sorte di trenini che giravano in giro, pacchi che volavano nell'aria. Gli hub, specialmente in particolare quello di Lipsia, credo sia uno dei più grandi d'Europa, dicono che sia davvero affascinante per la movimentazione e i volumi di traffico che gestisce. Senti, intanto arriva un messaggio, diciamo che è una sorta di diametralmente opposto rispetto alla nostra storia di oggi, la tua storia, Nicola, dove quello che insomma era considerato una delle pecore nere comunque purtroppo finisce traumaticamente la sua vita. Ci scrive Luciano: mia moglie aveva alle medie un ragazzo che si prendeva spesso la sua merenda. Oggi questo ragazzo è un grande sacerdote, Moreno da Como, insomma, perché abbiamo lanciato questo tema che era, no, capita di essere le pecore nere, magari capita a noi di essere la pecora nera e poi appunto di fare un percorso diverso. Di quei compagni di classe, hai più incontrato qualcuno, Nicola, li hai persi? No. Totalmente per strada? Completamente persi per strada, ma anche perché dalla compagine iniziale c'era poco da poter sostenere, erano mondi completamente diversi, poi ecco, si sono persi per strada, oltre un secondo superiore non è andato nessuno. Chiaro, è chiaro. Nicola, senti, io ti ringrazio per questa storia che aveva raccontava di una persona in maniera molto particolare e raccontava proprio di un fenomeno che non è solo dei giorni nostri, ma in realtà purtroppo c'è sempre stato. Nicola, immagino che l'Abico sia un po' lontano da Milano, se però il 26 di giugno passi da queste parti, noi ti aspettiamo per il live. Ci faccio un pensiero. Bravo, Matteo. Bravo, d'accordo. Grazie a te, ciao, buona serata. Un abbraccio, ciao. Ciao. E lo aspettavamo da tanto vuol dire tipo da qualche giorno, e ufficialmente domani sarà online la scheda di iscrizione per il live, visto che continua ad arrivarci mail dicendo posso già iscrivermi da domani sarà online, lo lanciamo spero ufficialmente domani in diretta radio24.it, la nostra pagina per iscriversi per il live del 26 di giugno del 2014, insieme ovviamente ai vostri racconti, insieme a Mauro Ottolini e alla sua band. Grazie ancora, grazie a Fabio Cantadori, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina, grazie soprattutto a Nicola. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Io sono Mimma e vivo a Prato. La storia di domani è la mia e parla di una persona che ho conosciuto in passato e che mi sono poi resa conto che ha raccontato un sacco di frottole. Questa è la mia storia e io sono qui. We'll be right back.